bello lo faccio domani. No, non rispetto gli orari. Sono me stesso, gli attacchi danza più qualche complesso. Tra le emozioni portate all'eccesso, un modo per farmi tirare lo sterzo non c'è. E allora canto un po' così mi calmo un po' che le cose che fanno bene al cuore stanno diventando poche. Viviamo in mezzo ai dettagli, saltiamo sopra i bagagli, perché non c'entrano tutti gli sbagli. E quando tornavo da scuola pensavo che merda quei libri di storia, io voglio cambiarla. Il peso dell'universo sopra una spalla. Dicevano che ero matto, guarda che fine hanno fatto. Suona ancora per favore quella nota senza nome. Solo un paio d'ore, poi buonanotte. Chiamare, tanto ho spento il cellulare. Non mi interessa che hai preso la casa al mare, io resto a casa a fumare come alla vigilia di Natale. Mica male. E suono un pianoforte con i tasti rotti, metto le speranze nelle casse forti, come se strillarlo resuscitasse i morti. E per questo taglio qua non bastano i cerotti, per questo i poeti saltano le notti e scrivono i loro lamenti coi fogli, l'inchiostro e le penne fra i denti. Fanno brillare le stelle cadenti. Hanno qualcosa di bello le persone sole, è un po' come quando piove col sole. Suona ancora. Dai, ti prego, non posso tirarmi indietro. Faccio un altro.